Purtroppo il rapporto annuale di Amnesty 2004 non contiene grandi novità. Siamo nell'anno secondo di quella che Amnesty chiama l'era della guerra ai valori globali, i valori globali di rispetto dei diritti umani. Delle cifre possono rendere più chiaro il quadro che approfondirò tra poco. Nel corso del 2003 sono aumentati notevolmente i dati riguardanti l'uso della tortura. I paesi che hanno utilizzato maltrattamenti e torture nei confronti dei prigionieri sono 132 ed erano 106 nel 2002. Sono aumentati in qualità e quantità gli attacchi dei gruppi armati di opposizione, dei gruppi terroristici, è aumentato il numero di paesi in cui questi attacchi hanno avuto luogo, è aumentato il numero delle vittime, è aumentata la brutalità e la spietatezza di questi attacchi. Detto in altre parole, il dato che emerge è che con obiettivi e metodi diversi, nonostante metodi e obiettivi profondamente diversi, il risultato che sembra conseguire questa offensiva contro i valori globali, offensiva guidata da un lato dai gruppi armati e dall'altro dall'amministrazione degli Stati Uniti e dai governi suoi alleati, è un risultato catastrofico per l'umanità. Oggi il mondo è insicuro, oggi il mondo è pieno di sfiducia, pieno di divisione, pieno di odio, e probabilmente questo è un risultato che non era mai stato raggiunto nel corso degli ultimi 50 anni. A correre il rischio di essere distrutto è il sistema dei diritti umani che era stato costituito a fatica nel dopoguerra. L'aspetto che preoccupa di più Amnesty e i movimenti per i diritti umani è che sembra che in nome della guerra al terrorismo, in nome della ricerca della sicurezza, si possa fare tutto e che quindi vengono resi carta straccia trattati di diritto internazionale, vengono rese carta straccia le leggi di guerra, e lo testimoniano le storie quotidiane di vittime di tortura, le storie quotidiane di vittime di attentati terroristici, lo dimostra il numero delle denunce di tortura che Amnesty riceve quotidianamente, e lo dimostra questa enorme retorica che si fa sui diritti umani, a tal punto che delle iniziative, anche militari, adottate in nome dei diritti umani si risolvono in ulteriori violazioni dei diritti umani stessi. Si adottano doppi standard, il linguaggio dei diritti umani è un linguaggio ormai completamente svuotato di contenuto da parte dei governi, e questo rende estremamente difficile l'operato di Amnesty e dei movimenti per i diritti umani, che devono affrontare oggi una sorta di entente cordiale che vede raggruppati i principali governi del mondo tutti d'accordo nel perseguire una logica di sicurezza a prescindere dai costi in termini di vite umane e a prescindere dai costi in termini di rispetto dei diritti umani.